9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno. Beh, questa volta la non me la sento di continuare troppo con la cosa di Iannacci, quindi la chiudo qua, non griderò le pillole, vi darò alcune considerazioni iniziali della trasmissione di oggi. È scontata, la trasmissione di oggi è alla ricerca della vostra opinione, quindi richiamate all'800240024 se non l'avete già chiamato per darci le vostre considerazioni su questi due incredibili giorni che abbiamo alle spalle, che ancora una volta consegnano l'Italia come detonatore dell'euro e ci rimettono nelle condizioni sotto un fango di melma grazie alla politica, cioè grazie alla politica, grazie a un pezzo alla politica, grazie a un pezzo alla politica, grazie a uno che è un pezzo che non si rassegna a essere passata. E questo è legittimo, lo può considerare quello che vuole. Stiamo parlando di Silvio Berlusconi, perché tutto nasce, primo atto, dalla decisione di Silvio Berlusconi di dire dopo un anno al suo partito, che è rimasto privo di una guida, incapace di iniziative, senza che nessuno abbia capito che bisognava segnare una discontinuità nei confronti del fallimento di 18 anni di Berlusconi, se lo ripiglia in mano e dice fine della ricreazione, adesso Alfano tu vai lì e gli dici a Monti che non è vero che gli hai votato 52 fiducia, che non è vero che siamo una forza responsabile, che non... no, tu sei la negazione di quello che vogliamo. Alfano lo fa, testimoniando per l'ennesima volta di essere carente di qualunque particella elementare necessaria per considerarsi un leader, si alza, ripete questa cosa, fine del primo atto, Berlusconi dà un pugno sul tavolo, lo riversa per aria, dice che torna lui, comanda lui contro la sinistra, eccetera. Secondo atto, Monti, non stupisce me, ma però pare che stupisca il più dei giornali e dei media italiani, la reazione del Presidente del Consiglio, che di fronte alle parole di Alfano fa passare nel rispetto del codice un vertice internazionale a Cannes a cui deve partecipare, in cui tiene la bocca saldamente muta, e fa bene, perché il vecchio costume per cui all'estero non si parla dell'Italia, ma appena rimette piede in Italia va dal Presidente della Repubblica e dice io non posso far finta di non aver ascoltato il facente funzione dell'ombra di un ex uomo politico che guidava un ex partito mai diventato partito come il PDL, Alfano e Berlusconi, dire le cose che ha detto in Parlamento senza reagire, quindi io mi dimetto perché scopro il gioco del baro eterno, ritorno berlusconiano, e gli ha scoperto il gioco, risultato per il quale il ritorno di Berlusconi riconsegna ciò che in queste ore sui mercati inizia a correre di nuovo verso il basso. Siamo a una perdita dei titoli bancari del superiore al 4% in corso adesso, avete sentito che sullo spread siamo tornati a oltre quota 350, ma al di là di questo si corre verso un confronto politico, credo a febbraio a questo punto, ma vedremo, di segno diverso rispetto a quello che sembrava. Berlusconi da una parte, dall'altra Bersani che pensava già di avere vinto e di avere già praticamente un governo composto con Monti e capo dello Stato come garanzia europea. C'è un'intervista del Wall Street Journal di oggi, non perdetevela, di Bersani, in cui già parla da Presidente del Consiglio incaricato, annunciava la patrimoniale, annunciava l'abbassamento a 300 euro della soglia di tracciabilità oltre la quale ci sono solo pagamenti elettronici, era visibilmente rilasciata prima della reazione di Monti, perché non c'è una sola domanda sul fatto che Monti entra in campo. Molti dicono entra in campo, molti dicono scelga la lista di Montezemolo. Repubblica oggi ci dice anche che Montezemolo ha cambiato comunque opinione, si candida anche lui, scende in politica, chissà se sciogliendo o meno il conflitto di interesse per Monti, e Monti si candiderebbe alla testa di questo listone con Casini, Montezemolo, Fini, e alcuni quotidiani scrivono che vi sarebbero parlamentari in uscita dal PDL. Diventerebbe o diventerà questa elezione uno scontro tra un Monti direttamente in campo con pezzi di partiti dietro e contro Bersani da una parte e contro Berlusconi dall'altro? Esito a vedere Monti che equipara il no a Bersani a quello a Berlusconi, ma se scende in campo così dovrà fare, e questo consegnerebbe l'Italia a un'ulteriore instabilità, peraltro. Diteci come la pensate voi. Nel piccolo, notizia infinitesima, anche fermare il declino ha deciso di essere alle elezioni con una sua lista, ma di questo qua non parliamo perché io non posso parlare di questa cosa come giusto. Gli avvenimenti sono Berlusconi che torna con il fantasma di una figura politica che in realtà proietta l'ombra di un terrore per l'Italia sui mercati, e dall'altra Monti e quello che Monti può fare per arginare questa tendenza, se candidarsi direttamente o meno, con chi e con quali conseguenze verso una sinistra che si considerava già in carrozza, per così dire. Certo, si voterà con quell'obbrobrio che è il Porcellum, altra responsabilità della BB, della banda Berlusconi, che evidentemente di fronte alla scelta di poter avere tutti i candidati scelti da lui, i nuovi fedeli e le fedelissime, ovviamente impone ancora una volta all'Italia l'obbrobrio. Ultimo inciso. Le parlamentari di Grillo confermano, a mio modesto giudizio, malgrado la buona fede di tanti militanti di quel movimento, che è una roba totalmente nelle mani di un burattinaio doppio, Casaleggio e Grillo. Non avete un numero, non avete una sola possibilità di non pensare che non siano state maneggiate dall'alto. Se quella è democrazia, io più o meno sono alto e biondo, ma giusto per capirci in quattro parole. Allora, i nostri ospiti, iniziamo a presentarli. È con noi Carlo Gentili, che torna spesso per commentarci l'opinione, per così dire, il sentiment dei mercati di fronte alle bailamme politico dell'Italia. Carlo Gentili, che è amministratore delegato di Nextam Partner. Buongiorno Carlo Gentili. Buongiorno a voi. E Mario Secchi, il direttore del Tempo. Buongiorno Mario Secchi. Buongiorno Oscar. Ricordo a tutti anche che c'è in libreria l'ultima sua fatica, il libro si intitola Tutte le volte che ce l'abbiamo fatta. Allora, Gentili, lei si fa illusioni di che tipo, se se ne fa qualcuna, oppure realisticamente come pensa che andranno le cose? L'Italia è tornata davvero a essere la minaccia per l'euro? Ma speriamo di no, ma temo di sì, perché diciamo questo colpo di mano non era atteso dai mercati. I mercati si erano convinti che appunto ci sarebbe stato forse anche un ricambio politico, almeno un vasto ricambio politico, e che Monti avrebbe portato l'Italia alle elezioni in un clima diverso. Questo ci riporta al clima di un anno fa, e quindi i mercati riazzereranno tutto il credito dato al nostro paese, immagino, e lo riporteranno sui livelli più o meno di dove eravamo un anno fa. Secondo lei, nell'abbassamento, eravamo in un corridoio europeo più che italiano specifico di abbassamento dello spread, ma contribuiva al raffreddamento del rischio Italia anche la prospettiva che sembrava fino a pochi giorni fa emergere dai sondaggi, cioè di un governo il cui tronco prioritario sarebbe stato quello solidamente incarnato dal PD? Cioè il PD, secondo lei, sconta nel mercato un timore minore di quanto non sia avvenuto storicamente, oppure questa è una falsa impressione, era semplicemente un corridoio europeo e non era ancora apprezzato in realtà il governo che sarebbe scaturito alle prossime elezioni, secondo lei? No, è così, sono d'accordo, è così, anche perché forse questo PD accetta, sottoscrive i patti europei. Se invece si torna a discutere, a rimettere in discussione l'opportunità dell'euro, se si ritorna a mettere in discussione le scelte di politica economica che gli alleati, i partner europei ci chiedono di fare, questo appunto rigetta l'Italia purtroppo nella totale incertezza e nel nella scarsa credibilità, insomma, ecco, il percorso che dobbiamo compiere è segnato, non se ne esce, è quello, punto e basta. Quindi rifiutarlo significa dire benissimo, allora la BCE non può comprare, non può dire whatever it takes, come ha detto Draghi, io comprerò i titoli a qualunque costo, perché avevo una sponda forte, convinta, europeista in Monti. Se quella viene meno, whatever it takes non lo dirà mai più il presidente della BCE, questo mettiamocelo bene in testa. Quindi siamo soli a difendere il nostro debito pubblico, siamo soli a difendere le nostre banche, con tutto il danno che questo comporterà per l'economia, perché ricordiamoci che pagare uno spread lo paga il governo, quindi lo paghiamo noi, ma soprattutto lo pagano le nostre imprese, che non troveranno facile credito sul mercato. Oggi, per chi ci crede, è la Madonna di Loreto, ma per chi non dovesse credere agli aiuti della Madonna, io avevo pensato, avevo scritto la settimana scorsa, che era meglio chiedere gli aiuti OMT. Naturalmente adesso con la crisi di governo è impossibile, però il mio ragionamento era nella probabilità, che non consideravo bassa, di avviarsi all'instabilità, era meglio che il governo Monti comunque aggiungesse la richiesta di aiuti in Europa. Forse sarebbe stato meglio, lei che dice, Gentile? Sì, sarebbe stato meglio. Io mi aspettavo, nella mia fanta politica che mi faccio da solo, mi aspettavo questa richiesta più avanti, diciamo in prossimità del termine del mandato, in prossimità delle elezioni. Questo avrebbe avuto molto senso. Oggi è assolutamente impossibile e forse dirò anche di più, forse anche immeritato, perché quella era una mossa politica che avrebbe tolto le castagne dal fuoco a chi poi deve andare a chiedere i voti o magari li ha chiesti e quindi diciamo, si trova in imbarazzo, potrebbe trovarsi in imbarazzo a chiedere gli OMT il primo giorno di lavoro. Quindi fatto da Monti, l'ultimo giorno di lavoro poteva avere molto senso. Oggi in questo clima regalerebbe argomenti a tutti coloro certo. Che certamente ma infatti, certo. Infatti è da escludere naturalmente questo come sempre una conferma che fino a che la politica è affidata a casi clinici, io apposta non voglio incappare in querele, però io da tempo considero che la parabola di Silvio Berlusconi non abbia più niente a che fare con la politica nei suoi termini, è la parabola della difesa di un gruppo e di una posizione personale, e va bene. Quello che mi colpisce e che secondo me ha del caso clinico è il silenzio che poi è seguito da uno sbattere di tacchi dell'intero consesso della sua formazione politica, che dopo un anno ancora non aveva neanche mostrato qualche segno di inizio di un bilancio da chiudere di un periodo di 18 anni e che adesso si ritrova tutti in campo a dire Silvio. Io penso che sia qualche cosa di mai vista una cosa simile nella storia italiana. Ripeto, persino il regime ha avuto il Gran Consiglio e naturalmente non faccio paragoni assolutamente tra il regime e Silvio Berlusconi, però è incredibile come tutto questo avvenga. Secondo me non si rendono proprio conto di quello che avverrà alle urne e di come con questo atteggiamento ulteriormente deradicano dall'Italia la possibilità che per esempio chi la pensa come me vuole meno debito pubblico, concessione di Stato, meno spesa, meno tasse, da una parte è più complicato, dall'altra per radicare queste idee in maniera sana e credibile nella società italiana bisogna ovviamente considerare loro come una infezione. Questo è il problema e naturalmente questa roba è ancora più complicata perché come ovvio consente ricicli politici sotto la bandiera di Monti, cosa che non mi piace per niente, per essere chiara, nemmeno quella. Però certo, al confronto dei pugni sbattuti sul tavolo da Berlusconi con tutti che applaudono e iniziano ad andare in televisione dicendo che vinceranno, ma cosa? Vinceranno cosa? E la decisione consapevole di unirsi alla difesa di due debolezze, una personale evidente di un uomo che ha perso ogni credibilità e che non la potrà riacquistare in sede internazionale, e dall'altra di un gruppo che fa acqua insieme a una posizione penalmente complicata. E queste sono le cose per le quali ributtare tutto per aria ancora una volta, bah, francamente. Però io ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a capire. E allora chi meglio di Mario Secchi, direttore del Tempo. Buongiorno, direttore. Allora, ciao Oscar, stai guardando i dati di borsa? Sì, sto guardando, sì. Hanno sospeso tutte e tre le principali banche italiane, stanno sotto il 5. Esattamente, quindi andiamo. È passato un carro armato. MPS stava a meno 3,56, UbiBanca 2, meno 2,47, BPM 2,59, Stopfin Meccanica. Ma naturalmente loro diranno che questo non sono le tendenze del mercato quelle che contano, anzi diranno che è il mercato che reagisce male perché deve ancora troppo aspettare prima del ritorno di Berlusconi. Però in realtà tu come la pensi su questo doppio colpo? Primo, il pugno dato sul tavolo da Berlusconi con Alfano che obbedisce. Secondo, la reazione di Monti, volevo capire quanto e come e se sei stupito. Terzo, secondo te cosa succede? Prendete qualche minuto e dammi una spiegazione. Quante ore abbiamo? No, la cosa è in realtà molto più semplice di quanto appaia. Che Berlusconi volesse tornare a candidarsi ormai era chiaro da qualche mese. Anche la sua dichiarazione solenne dei primi di ottobre, in cui diceva no, io non mi candido più, Monti va bene, addirittura aveva intravisto Monti come leader di uno schieramento moderato, no? Pensa, detto da lui, e confrontalo con quello che sta succedendo oggi. Quello era chiaro che sarebbe successo, perché comunque Berlusconi guarda i sondaggi, e nei sondaggi lui è quello che continua a prendere più voti di tutti nel suo schieramento, dentro il suo partito. Quindi dal punto di vista politico uno dice vabbè, è una scelta oggettiva. Il problema è che non è una scelta politica, nel senso che poi c'è un contesto, e il contesto è quello di queste ore, quindi i mercati non gradiscono, la stampa internazionale ovviamente coglie al balzo la situazione per colpire il ventre molle dell'Italia, ci sono grandi interessi in gioco, lo sapete tutti, a cominciare dalle banche, tanto per dirne una, e quindi questo è un contesto molto difficile per Berlusconi. Considera che ci sono delle tensioni fortissime, di cui abbiamo dato conto noi oggi sul tempo, dentro il PPE addirittura, cioè qualcuno dice ma noi non lo vogliamo qua, non vogliamo il PDL qua perché è un partito anti-europeista e così via. Ci sono tensioni forti all'interno dell'Unione Europea, avete visto le dichiarazioni di Schulz, che non vanno prese come la solita dichiarazione di Schulz, sono qualcosa di più. Quindi contesto molto difficile, e dunque scelta, se fosse stata logica dal punto di vista dei numeri, non lo è dal punto di vista della strategia politica, a mio avviso. Infatti io sono contrario, lo sanno tutti. Una sua sesta candidatura a Palazzo Chigi per me è un errore, e parlo da liberale, anche questo è noto, non sono certo un pericoloso nemico del centrodestra, però secondo me questo è un errore. Dopodiché c'è il tema di Monti. La mossa di Monti è stata dal punto di vista della tattica politica da manuale, perché l'intenzione del PDL, anche qui facciamo un'analisi di tipo machiavellico, cioè descriviamo che cos'è senza darne alcun giudizio di tipo morale, diciamo. Ma l'idea del PDL era quella di prendere a cazzotti, passatemi il termine, il governo fino alla fine della legislatura. Con, se volete, la contraddizione di averlo sostenuto per un anno, di aver votato tutte le fiducie, di aver sostenuto tutti i provvedimenti, eccetera, ma questo era, cioè l'idea di sfruttare il clima pesante creato dalla crisi economica, dalla recessione, per raccogliere consenso e naturalmente puntare su chi? Su Monti, perché è il premier che incarna il rigore in questo caso. Questa strategia del centrodestra è andata a scatafascio perché Monti ha anticipato tutti. Ha colto la palla al balzo del discorso di Alfano alla Camera, che è stato secondo me un errore dal punto di vista tattico, e ha detto bene, non c'è più la fiducia. E se non c'è più la fiducia, allora io vado al Quirinale e dico al Presidente della Repubblica che mi dimetto non appena approvata la legge di stabilità. E improvvisamente quello che era il bersaglio immobile è diventato mobile, cioè si è spostato, cioè Monti. A quel punto, non essendoci più un bersaglio che tu puoi centrare a piacere, la campagna elettorale di Berlusconi diventa più dura, non ci sono dubbi. La terza gamba del ragionamento che stiamo cercando di svolgere è cosa farà Monti. Allora, Monti ha due opzioni possibili: può candidarsi, e cioè promuove una lista insieme ad altre persone ispirata non tanto a quello che ha fatto il governo tecnico, perché qua poi ci sarebbe da aprire un capitolo sulle azioni del governo tecnico, ma lo lascio da parte per ora, quanto all'idea di un'Italia più ordinata, diciamo così, più seria, più rispettosa degli impegni presi in sede europea, però nello stesso tempo con una forte legittimazione politica. E questa è l'idea della lista, con lui direttamente impegnato. L'altra cosa che può fare Monti è fare il battitore libero, e cioè d'ora in poi dire la sua. Finora Monti si era tenuto, diciamo, un po' al di sopra della furiosa battaglia politica. Da oggi può fare quello che vuole, perché è oggettivamente più libero sotto questo punto di vista, e dunque potrebbe fare endorsement a questo o a quel personaggio politico, per esempio, esprimere critiche su questa o quella proposta politica di un partito, dare consigli su quali siano le soluzioni per la crescita, cosa che finora non è avvenuta, in quanto al governo era difficile farlo in queste condizioni, oggettivamente. Quindi o battitore libero e eventualmente diciamo l'idea di dare un apporto a qualche movimento politico, oppure addirittura personaggio che va in campo in prima persona. Di sicuro Monti non resterà fermo. Di sicuro, sembra anche a me così. Sì. Io devo dire la verità, penso che bisogna liberarsi di Berlusconi politicamente, perché che l'alternativa sia tra la difesa di un sesto ritorno, il suo sì, impossibile, e oppure dover aderire a Monti, che pure ha avuto un mix di finanza pubblica che per un liberale è vero, tutto tasse, è stato comunque disastroso. Questo testimonia come siamo messi. Nel senso, se io sarei ne posso, Oscar, parlare. Un'ultima cosa. Sì. Il quadro politico, cioè quello che accade adesso in borsa, sconta una fetta di speculazione, però giustamente misura il rischio del paese. Certo. No? Io compro debito, voglio che abbia un indice di rischio e quindi devo assicurarmi con tassi di interesse più alti, questa è la filosofia di fondo. Però insomma, tutto quello che abbiamo descritto finora porta direttamente a uno scenario balcanizzato del Parlamento. Questo è il vero problema, cioè non c'è un correttivo alla legge elettorale, e non penso ci sarà. La situazione nell'area di centrodestra è assolutamente divisa, anche comunque una lista Monti non farebbe altro che perpetuare queste divisioni, avrebbe il solo pregio, tra virgolette, o comunque darebbe come risultato il fatto di portar via dei voti all'area del centrodestra berlusconiano, che però non è completamente convinto di quello che si fa da quelle parti là. Dopodiché il centro era già irrilevante di per sé, non valeva quasi il 5% in questo momento, e può sperare solo che Monti gli dia una mano, questa è la verità. Il centrosinistra è rappresentato da un PD i cui programmi economici, a mio avviso, sono un po' lunari rispetto agli impegni presi, con tra l'altro il problema di dover conciliare la politica pragmatica di Bersani con i sogni vendoriani. E metteteci poi che comunque Grillo, male che vada, un 12% lo porta a casa. Sei molto ottimista, secondo me molto di più, però vabbè. No, ma io guarda, mi tengo basso, no, perché dico sempre che a ridosso della consultazione elettorale i consensi si polarizzano in qualche maniera, quindi diciamo prudentemente dico così, è probabile che sia molto di più, i sondaggi lo danno a 17-18, però facciamogli scontare qualcosa anche a lui. Ma questo significa chiaramente che ha una truppa parlamentare consistente alla Camera, che al Senato può anche centrare altri obiettivi, e che il Parlamento è sostanzialmente in una condizione molto difficile. Cioè, non correggere la legge elettorale è il vero dramma dell'Italia, perché noi non avremo probabilmente un quadro di governabilità. E scusate, ma se io compro titoli italiani, che cosa volete che faccia? Che non mi assicuri? Il problema non è se il Paese fallisce o no. perché non è quello il tema. Il tema è se il Paese è capace domani di fare riforme o no, e questo è il punto fondamentale della questione. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità. Tra le altre sospensioni a Piazza Affari c'è anche stata UbiBanca che perdeva il 4,88% e il Monte Paschi che era in ribasso del 5,95%, quindi le banche guidano verso il basso le reazioni della borsa. Silvio Berlusconi dice di essere il domani e il passato remoto, il trapassato remoto. Sarò durissimo su questa roba, perché per chi la pensa come me questa iniziativa complica ulteriormente la possibilità di dare all'Italia politiche che sarebbero possibili, che non sono né la stangata ancora che uccide Imposte, che uccide, perdonate, Impresa e Lavoro, ma né tantomeno la riapparizione del fantasma di Baskerville, cioè Silvio Berlusconi. Le reazioni sono molto varie, c'è una forbice di reazioni sugli sms orientati per lo più contro Berlusconi, non mancano tanti anche contro Monti, molti dicono anche non bisogna sopravvalutare la reazione dei mercati, quella è la speculazione, la speculazione, mi è entrato in testa che i mercati sono la speculazione, questa sarà la lunga deriva di questi anni. Però detto tutto questo, io mi limito a leggere perché sono veramente raffiche. C'è chi invoca Grillo, c'è chi invoca Monti che scende in campo, pochi però, vediamo nelle prime telefonate. Intanto nel frattempo saluto, perché ci ha raggiunto vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera, Giuliano Cazzola. Buongiorno, grazie. Buongiorno a lei, grazie a lei. Cazzo, ha dipinto dai giornali, io non le attribuisco opinioni prima di sentirle, ma lo ricordo ai nostri ascoltatori, come uno, diciamo, molto tiepido di fronte alla ridiscesa in campo con Berlusconi. Per il momento ci dica, è così o no? Sì, ma no, soprattutto io sono favorevole al governo Monti e quindi non ho condiviso la linea del mio partito di questa subitanea e improvvisa astensione. Ok, allora ci torniamo un secondo sopra, sì. Mettiamoci due telefonate per iniziare a vedere come la pensano i nostri ascoltatori. Emilio da Milano, prego Emilio. Buongiorno, io sono senz'altro perché Monti si ricandidi. Non dimentichiamo che eravamo in una situazione amministrativa disastrosa e questo uomo, diciamo molto bravo, molto abile e molto conosciuto all'estero, ci ha ridato una verniciata di rispettabilità e oltretutto ci ha rimesso, si fa per dire, ma comunque ci ha rimesso a posto coi conti. Allora Emilio, secondo lei si dovrebbe andare alle elezioni con un proprio partito insieme a Montezemolo e a Casini e Fini, come secondo lei Emilio? Beh, per me che si presenti, anche se si presenta da solo, ma una cosa, se si ripresenta appoggiato da Montezemolo, da Casini, che d'altra parte sono cani sciolti, però insomma un certo numero di voti lo possono portare. Va bene, Emilio, chiarissimo, lei dice deve diventare un leader, si presenta alle elezioni. Sentiamo invece Francesco da Padova. Buongiorno, pronto? Dica. Buongiorno, intanto saluto Giuliano Cazzola, uno dei deputati più competenti di tutto il Parlamento italiano. Farà piacere a Cazzola, anch'io condivido del resto. Però Francesco, andiamo al punto. Ci vuole poco per uno che segue come me da tanti anni il Parlamento. E andiamo al punto, Francesco. Veniamo al punto. Dunque, assolutamente contrario alla candidatura di Berlusconi, benché fino a una settimana fa pensassi di votare il PDL, diciamo. Io provengo da una specie di sinistra, però ero orizzontato, però con Berlusconi credo che sia invotabile e diventa invotabile, senti Oscar, anche la Lega, perché se io ero anche per la Lega, diciamo, favorevole, però se dopo sai già che dopo le elezioni devono ubbidire a Berlusconi, allora è tutto, non solo il PDL. È quello che ci offre oggi l'Italia, purtroppo, è la brutta compagnia di Monti insieme con quello che ci vuole Farsigli, fare Farsigli a tutti i costi, oppure mandare in chiesa tutte le domeniche come Casini e i suoi tirapiedi. Cioè, Monti sarebbe in brutta compagnia, purtroppo è il meglio che l'Italia possa offrire attualmente. Quindi anche tu dici che alla fine se Monti si candida è il meglio. Romano da Roma che dice? Salve. Chi meglio di lei sa, caro Oscar, che non è vero che l'Italia era messa così male quando c'è stato imposto Monti. Le agenzie di rating ci avevano dato per spacciati, non era vero. Attacco speculativo all'Italia. La peste economica è venuta dall'America nel 2008 con i derivati. E Obama, il signor abbronzato, invece di punire le banche, le sue, ha colmato le loro perdite. Ma senza andare... Romano, fermati. Inutile che mi fai la storia del passato, eccetera. E lei lo sa meglio di me. Ma non è quello il punto. Il problema, voglio capire, tu stai con Berlusconi? No, allora oggi che cosa dici? Meglio Monti? Io vorrei un colpo di stato di Oscar Giannino. Vabbè, questo io il colpo di stato non ne faccio, che grazie Romano, il colpo di stato io non ne faccio, sicuramente poi non io. Non siamo favorevoli a nessun tipo di colpo di stato. Voglio un paese in grado di eleggere persone serie che sappiano dove mettere le mani, perdonami. Alberto da Milano ancora, Alberto. Sì, buongiorno. Sì. Io sono da sempre un elettore di centrodestra. Devo dire che sono rimasto basito della decisione di Berlusconi di scendere in campo nuovamente, perché questo, se possibile, complica ancora di più la situazione, perché da una parte abbiamo Berlusconi che, come ha detto anche degli altri interventi prima del mio, è sostanzialmente invotabile, dall'altra parte abbiamo Bersani che fa delle proposte che sono a metà tra la demagogia pura, tipo la patrimoniale, e la mazzata definitiva ergo, a quello che è la capacità di spesa di ergo, questo paese che sta affossando ergo tutti. Abbiamo capito, ma è un po' più ergo a questo punto diventa difficile per chi come me è in cerca di una bandiera, e io credo che, me lo lasci dire, l'unica bandiera possibile di cui nessuno parla, nessun medium parla, sia proprio fermare il declino, che è l'unica forza. Speriamo politica. Alberto, ma non mi mettere nei guai perché mi levano anche la trasmissione. Però io sono naturalmente d'accordo. Naturalmente è come andare agli 8000 senza ossigeno, cioè è inutile che ci illudiamo. Però mi hanno chiesto di farlo adesso sto fine settimana, vedremo. Paolo da Palermo, rapidissimo. Paolo, come la pensi? Buongiorno Oscar e a tutti i radioascoltatori. Allora, io penso sarà una disamina un po' semplicistica. Falla. Però io penso che questa mossa di Berlusconi di staccare la spina al governo Monti, o perlomeno di non dare la fiducia, io penso che questa mossa, se non la faceva Berlusconi adesso, l'avrebbe fatta di sicuro Bersani subito dopo le feste. Ma... perché penso che c'è il Monti che è nei consensi popolari, penso che sia pari a zero. Quindi per prendere più voti di Grillo ci sarebbe stata questa mossa da parte di Bersani subito dopo, perché noto una certa stizza negli esponenti di centro-sinistra su questa mossa. Ma la stizza, ma è ovvio, perché a questo punto gli rimette in campo Monti. Loro l'avevano sostanzialmente abbinato come candidato al Quirinale e si candidavano appunto a vincere le elezioni, per di più anche col Porcellum pure loro, perché tanto la legge elettorale non si cambiava. No, guarda, perdonami Paolo, la tua è un'ipotesi non verificabile, quindi come tale grazie di averla avanzata. Allora, this is the end, vedremo, non sappiamo se non è mai la fine di niente in Italia, perché anche quelli che dovrebbero aver capito che sono alla fine, ma in realtà pensano sempre di essere il futuro. Scambiare il passato per il futuro si chiama sindrome temporale bilaterale, di solito viene a chi picchia la testa a un certo punto della corteccia prefrontale sinistra, però qua senza picchiare la testa, ma a Berlusconi viene. Allora Cazzola, che cosa immagina a questo punto? Che Monti si candida in politica, si candida con Montezemolo, con Casini, con Fini, sembra tutto preludere a questo nei mezzi toni con cui Monti sta trattando la stampa da che è andato al Quirinale. Lei se lo aspetta? Pensa che sia positivo in quel caso? No, che effetto avrà? Io penso che sia positivo e me lo auguro. Aspettarmelo è un pochino più difficile, perché secondo me la prospettiva su cui l'aveva instradato, no, il presidente Napolitano, era quella di un Monti bis con la stessa maggioranza di quest'anno. Non credo, se Monti si candida deve necessariamente candidarsi contro, anche se non c'è dubbio, contro Bersani, e questo io lo auspico, ma credo che per Monti sia abbastanza difficile, a meno che non decida, come non ha fatto Alfano, a meno che non decida di camminare con le sue gambe, Alfano ha camminato con le gambe del cavaliere, lui per adesso ha camminato con quelle, in larga misura, con quelle del Presidente della Repubblica, quindi io non sono molto, molto persuaso, ecco, anche se, come ho detto, io lo auspico, penso che una discesa in campo di Monti sarebbe l'unica chance per impegnarmi ancora in politica. Quindi lei lo seguirebbe, sì. Pronto? Lei lo seguirebbe, sì. Io Monti lo seguirei sicuramente, necessariamente non chiederei di essere candidato, non è che mi pare che sia importante tornare in Parlamento, io ho già detto che non mi sarei più candidato e anzi non vorrei che il mio dissenso dal PDL fosse interpretato come una caccia di posti da qualche altra parte. Però ecco, io al di là di tutto, al di là delle idee che mi sono fatto della candidatura di Berlusconi, io credo che la linea politica che il PDL porterà avanti necessariamente, perché la politica è una scienza esatta, no? E quindi quando si fanno certe scelte bisogna farne anche delle altre, sarà una linea politica che a questo punto farà concorrenza a chi ha fatto sempre l'opposizione a Monti in quest'anno, quindi dovrà prendersela con l'Europa, dovrà prendersela con l'euro, dovrà prendersela con la Merkel, finirà per forza di cose per fare una campagna che già i nostri interlocutori guardano con preoccupazione. Cazzola ha parlato chiaro. Secchi, ti aspetti un Monti che scende in campo e a quel punto deve polemizzare però anche con il PD, e come la fa la maggioranza? Perché l'ipotesi che arrivi lui come primo partito attualmente è molto complicata, molto difficile rispetto al bloccone PD. Come farebbe a fare campagna elettorale con un blocco di centro, una lista di centro solo contro Berlusconi, avendo non potendo contrattare preventivamente con Bersani che governa lui comunque, perché questo Bersani non glielo può riconoscere, oppure tu credi di sì? No, è corretto quello che diceva Giuliano e anche quello che constatavi tu, cioè se Monti si candida è chiaramente fa parte di uno schieramento liberale, chiamiamolo così, non so neanche se definirlo di centrodestra, perché centrodestra poi è un'altra cosa ancora, e non ha la possibilità, se queste sono le carte in campo, di prendere la maggioranza dei voti e quindi di andare al governo. Però qua c'è un elemento di chiarezza in realtà importante, cioè l'Italia non ha, cioè voglio dire, in Italia sei o berlusconiano o anti-berlusconiano, no? Che sembra un po', è un paese bloccato sotto questo punto di vista, sembriamo ancora fermi ai guelfi e ghibellini, ai bianchi e neri, certo, ai comunisti, agli anticomunisti, è un paese che non riesce a fare un passo in avanti. E quindi la dinamica sociale del paese è sempre quella che funziona per opposti, non essendo però un paese anglosassone, questa è la cosa paradossale, cioè andiamo per opposti ma non siamo l'Inghilterra, non siamo la Germania, non siamo gli Stati Uniti, men che meno. 30 secondi. E quindi sostanzialmente Monti fa un gioco che è tutto nell'area moderata, cioè sottrae consenso a Berlusconi e comincia ed è un nuovo inizio eventualmente di quell'area là, punto. È molto importante, sì, vedremo. Io ho anche il problema di fermare il declino, vediamo un pochino come si può comporre questa roba, perché noi siamo pure contro i vecchi partiti, ma tutto ricambia ogni giorno. La borsa continua ad andare giù, Berlusconi e il declino dell'Italia, a domani.